Com'è lento a morire il giorno in quelle smisurate sere d'estate. Un pallido fantasma della casa di fronte continuava indefinitamente ad acquarellare sul cielo il suo persistente biancore. Finalmente in casa era notte. Urtavo contro i mobili dell'anticamera, ma nella porta che dava sulle scale, in mezzo al nero che credevo totale, la parte vetrata era traslucida e azzurra, azzurra dell'azzurro d'un fiore, d'un'ala d'insetto, un azzurro che mi sarebbe sembrato bello se non avessi sentito che era un ultimo riflesso, tagliente come acciaio, colpo supremo che ancora, nella sua infaticabile crudeltà, mi infliggeva il giorno. L'oscurità completa finiva, tuttavia, col venire. Ma bastava allora una stella apparsa accanto all'albero del cortile per ricordarmi le nostre partenze in vettura dopo pranzo per i boschi di Chantepie, tappezzati dal chiaro di luna. E persino giù in strada m'accadeva di isolare, di raccogliere sullo schienale d'una panchina, fra mezzo alle luci artificiali di Parigi, la purezza naturale d'un raggio di luna che faceva regnare sulla città, reimmergendola momentaneamente per la mia fantasia nella natura, il silenzio infinito dei campi evocati e con esso il ricordo doloroso delle passeggiate che vi facevo al fianco di Albertine. Ah, quando sarebbe finita la notte! Ma alla prima frescura dell'alba rabbrividivo, perché mi riportava la dolcezza di quell'estate in cui da Balbec a Ancarville, da Ancarville a Balbec, ci eravamo riaccompagnati tante volte a vicenda sino alle prime luci del giorno. Non avevo più che una speranza per il futuro, una speranza ben più straziante d'un timore: dimenticare Albertine. Sapevo che un giorno l'avrei dimenticata. Avevo pur dimenticato Gilberte, Madame de Guermantes, avevo pur dimenticato la nonna. E per l'oblio così totale, sereno come quello dei cimiteri, con cui ci stacchiamo dalle persone che abbiamo smesso d'amare, il castigo più giusto e più crudele è proprio quello di intravederlo come inevitabile, questo stesso oblio, nei confronti di quelle che ancora amiamo. Sappiamo, per la verità, che si tratta di uno stato non doloroso, di uno stato di indifferenza. Ma non potendo pensare nello stesso tempo a quel che ero e a quel che sarei stato, pensavo con disperazione a tutto quel tegumento di carezze, di baci, di sonni amici di cui presto avrei dovuto lasciarmi spogliare per sempre. Lo slancio di quei ricordi così teneri, venendo a infrangersi contro l'idea che Albertine era morta, mi opprimeva con l'urto di flussi a tal punto contrastanti che non riuscivo a restare immobile. Mi alzavo e poi mi fermavo di colpo, schiantato. La stessa luce d'alba che vedevo subito dopo aver lasciato Albertine, ancora radioso e caldo dei suoi baci, insinuava da sopra le tende la sua lama ora sinistra, il cui biancore freddo, implacabile e compatto, entrava a darmi come una coltellata. Presto cominciavano i rumori della strada, permettendo di leggere sulla scala qualitativa della loro sonorità il grado di calore in continuo aumento nel quale sarebbero risuonati. Ma in questo calore, che alcune ore dopo si sarebbe imbevuto dell'odore delle ciliegie, non trovavo più, come in un rimedio che la sostituzione d'un componente con un altro basta a rendere, da euforizzante ed eccitante che era, deprimente, il desiderio delle donne, ma l'angoscia della partenza di Albertine. D'altronde, il ricordo di tutti i miei desideri era tanto impregnato di lei e di sofferenza quanto il ricordo dei piaceri. Quella Venezia dove avevo creduto che la sua presenza mi sarebbe stata importuna, probabilmente perché sentivo confusamente che mi sarebbe stata necessaria, adesso che Albertine non c'era più, preferivo non andarci. Albertine mi era sembrata un ostacolo, interposto fra me e le cose, in quanto per me le conteneva tutte. Ed era da lei che le potevo ricevere come da un vaso. Adesso che il vaso era distrutto, non mi sentivo più il coraggio di prenderle. Non ce n'era più una da cui non mi distogliessi prostrato, preferendo non gustarne. In questo modo la mia separazione da lei non mi schiudeva affatto il campo dei piaceri possibili che avevo creduto chiuso dalla sua presenza. D'altronde l'ostacolo che la sua presenza forse era effettivamente stata per me al viaggiare, al godermi la vita, Non aveva fatto che mascherarmi, come sempre succede, gli altri ostacoli, i quali, scomparso quello, ricomparivano intatti. Allo stesso modo, un tempo, quando qualche visita gradevole mi impediva di lavorare, se il giorno dopo rimanevo solo, non è che lavorassi di più. Una malattia, un duello, un cavallo imbizzarrito ci fanno vedere la morte da vicino. Con che slancio avremmo goduto della vita, di voluttà, di paesi sconosciuti che stanno per esserci tolti. E una volta passato il pericolo, quel che ritroviamo è la stessa vita uggiosa in cui niente di tutto ciò esisteva per noi. Durano poco, certo, queste notti così corte. Alla fine sarebbe tornato l'inverno e non avrei più dovuto temere il ricordo delle passeggiate con l'esino all'alba, troppo presto sopraggiunta. Ma le prime gelate non mi avrebbero forse portato il germe, conservato nel loro ghiaccio, dei miei primi desideri? Quando la mandavo a chiamare a mezzanotte e il tempo mi sembrava così lungo sino alla sua scampanellata che adesso avrei potuto aspettare eternamente invano. Non mi avrebbero portato il germe delle mie prime inquietudini quando per due volte credetti che non sarebbe venuta. Non la vedevo a quel tempo che raramente, ma persino gli intervalli che separavano allora le sue visite, grazie alle quali Albertine sorgeva dopo diverse settimane dal fondo d'una vita ignota che io non cercavo di possedere, mi assicuravano la calma, impedendo alle velleità continuamente interrotte della mia gelosia di conglomerarsi e di fare blocco nel mio cuore. Tanto erano stati tranquillizzanti allora quegli intervalli, altrettanto erano retrospettivamente soffusi di sofferenza da quando tutto ciò che d'ignoto lei avesse potuto fare nel frattempo aveva smesso d'essermi indifferente, e soprattutto adesso che nessuna sua visita avrebbe mai più avuto luogo. Così, quelle sere di gennaio in cui lei veniva e che per questo m'erano state tanto dolci, adesso con la loro brezza pungente m'avrebbero ispirato un'inquietudine che allora non conoscevo, riportandomi, divenuto però pernicioso, il primo germe del mio amore conservato nel loro gelo. E pensando che avrei visto il ritorno di quel tempo freddo che, da Gilbert e dai miei giochi ai Champs-Élysées in poi, m'era sempre parso così triste. Quando pensavo che sarebbero tornate sere simili a quella sera di neve in cui per tutta una parte della notte avevo aspettato invano Albertine, allora, come un malato, dal punto di vista lui, del corpo, per il suo petto, ciò che io, moralmente, ancor di più temevo per il mio dolore, per il mio cuore, era il ritorno dei grandi freddi. E mi dicevo che il più duro da passare sarebbe stato, forse, l'inverno. Legato com'era a tutte le stagioni, perché io perdessi il ricordo di Albertine, avrei dovuto dimenticarle tutte, a costo poi di ricominciare a conoscerle come un vecchio colpito da emiplegia che impara di nuovo a leggere. Avrei dovuto rinunciare a tutto l'universo. Soltanto, mi dicevo, una vera morte di me stesso avrebbe potuto, se non fosse anch'essa impossibile, consolarmi della sua. Non pensavo che la morte del proprio io non è né impossibile né straordinaria. Essa si consuma, a nostra insaputa, se si vuole, nostro malgrado, ogni giorno. E io avrei sofferto della ripetizione d'ogni sorta di giornate che non solo la natura, ma circostanze artificiose, un ordine più convenzionale, introducono in una stagione. Presto sarebbe ricorsa la data di quando ero andato a Balbec, l'altra estate. E il mio amore, che non era ancora inseparabile dalla gelosia e non si dava pena di cosa facesse tutto il giorno Albertine, doveva ancora subire tante evoluzioni prima di diventare quello degli ultimi tempi, così diverso, così particolare, che quest'anno finale, in cui il suo mutamento aveva avuto inizio e s'era compiuto il destino di Albertine, mi appariva pieno, vario, vasto, come un secolo. Poi sarebbe venuto il ricordo di giorni più tardi, ma in anni precedenti, nelle domeniche di brutto tempo, ma tutti erano ugualmente usciti, nel vuoto del pomeriggio in cui il rumore del vento e della pioggia m'avrebbe invitato un tempo a starmene a fare il filosofo sotto il tetto, con quanta ansia avrei visto avvicinarsi l'ora in cui Albertine, così poco attesa, era venuta a trovarmi, m'aveva accarezzato per la prima volta, interrompendosi per Françoise che aveva portato la lampada, in quel tempo due volte morto, quando era Albertine ad essere curiosa di me, quando la mia tenerezza per lei poteva legittimamente nutrire tanta speranza. Persino in una stagione più inoltrata, le sere gloriose in cui i retrocucina, i convitti socchiusi come cappelle, immersi in una polvere dorata, lasciano che la via si incoroni di semidee che, conversando non lontano da noi con le loro simili, ci mettono la febbre di penetrare nella loro mitologica esistenza, non mi ricordavano altro ormai che la tenerezza di Albertine, la quale, standomi accanto, mi impediva di avvicinarmi a loro. D'altronde, anche al ricordo delle ore puramente naturali, si sarebbe per forza aggiunto il paesaggio morale, che ne fa qualcosa di unico. Quando, più tardi, con un primo bel tempo quasi italiano, avessi udito il cornetto del capraio, lo stesso giorno, avrebbe mischiato via via alla sua luce l'ansia di sapere Albertina al Trocadero, forse con Lea e le due fanciulle, poi la dolcezza familiare e domestica, quasi d'una moglie, che mi sembrava allora imbarazzante e che Françoise stava per riportarmi. Quel messaggio telefonico con cui Françoise mi aveva trasmesso l'omaggio obbediente di Albertine che tornava assieme a lei. Avevo creduto di provarne orgoglio. M'era ingannato. Se mi aveva inebriato era perché m'aveva fatto sentire che colei che amavo era davvero mia. Viveva solo per me. E persino a distanza, senza che io dovessi occuparmene, mi considerava come il suo marito e padrone, tornando ad un mio cenno. E così quel messaggio telefonico era stato una particella di dolcezza che veniva da lontano, emessa da quel quartiere del Trocadéro che si trovava ad ospitare per me delle fonti di felicità da cui si irradiavano alla mia volta pacificanti molecole, balsami calmanti, restituendomi infine una libertà di spirito così dolce che altro non m'era rimasto da fare, abbandonandomi senza la restrizione d'un solo pensiero alla musica di Wagner, che aspettare il sicuro ritorno di Albertine, senza febbre, con una totale assenza di impazienza in cui non avevo saputo riconoscere la felicità. E di questa felicità che lei tornasse, che mi obbedisse e mi appartenesse, la causa era nell'amore, non nell'orgoglio. Mi sarebbe importato ben poco adesso d'avere ai miei ordini 50 donne che tornassero a un mio cenno, non già dal Trocadéro, ma dalle Indie. Ma quel giorno, sentendo Albertine che, mentre io ero solo in camera mia a far della musica, veniva docilmente verso di me, avevo respirato, disseminata come un pulviscolo nel sole, una di quelle sostanze che, come altre sono salutari al corpo, fanno bene all'anima. Poi, mezz'ora dopo, c'era stato l'arrivo di Albertine e poi la passeggiata con Albertine. Arrivo, passeggiata che avevo creduti noiosi, perché erano stati fasciati per me di certezza, ma che proprio in virtù di tale certezza avevano, dal momento in cui Françoise m'aveva telefonato che la stava riportando, fatto colare una calma d'oro nelle ore successive, facendone come una seconda giornata, che era diversissima dalla prima perché aveva un tutt'altro sottofondo morale, e grazie a questo sottofondo morale, che ne faceva una giornata originale, andava ad aggiungersi alla varietà di quelle che avevo conosciute fino allora e che non avrei mai potuto immaginare, così come non potremmo immaginare il riposo d'un giorno d'estate se giorni simili non esistessero già nella serie di quelli che abbiamo vissuti, giornata che non potevo certo dire di ricordare, dal momento che a quella calma s'aggiungeva adesso una sofferenza che allora non avevo provata. Ma molto più tardi, quando riattraversai a poco in senso inverso i tempi per i quali ero passato prima di amare tanto Albertine, quando il mio cuore cicatrizzato fu in grado di separarsi senza sofferenza da Albertine morta, quando potei infine ricordare senza sofferenza il giorno in cui Albertine era andata a fare delle commissioni con Françoise invece di restare al Trocadéro, Lo ricordai con piacere quel giorno, come parte d'una stagione morale prima d'allora sconosciuta. Lo ricordai finalmente con esattezza, senza più immettervi sofferenza e, come si ricordano invece, certi giorni d'estate che ci sono sembrati troppo caldi quando li abbiamo vissuti e da cui soltanto a posteriori si estrae in tutta la sua purezza un blocco d'oro stabile e di indistruttibile azzurro.